farmi molte domande. Non saprei risponderti bene. Poca linfa nelle vene. E la memoria non trasmette più, non trasmette più, non trasmette più, non trasmette più, non trasmette più, non trasmette più. Padre, che pianeta era? Questa era la Terra. Era un pianeta sincero. Sorrideva sempre, sorrideva sempre, sorrideva sempre, sorrideva sempre, sorrideva sempre, sorrideva sempre. Padre, che animale è questo? Era un cane. Che strana macchina è? Questo era un uomo. Era una macchina molto strana, e non sorrideva mai, non sorrideva mai, non sorrideva mai. Dimmi, sono già morte? Sono morte 1 milione di anni fa. E questo è solo un'ombra. L'uomo è andato, ha smesso di sbagliare, è andato via. E rimaniamo noi, rimaniamo noi, rimaniamo noi, rimaniamo noi, rimaniamo noi, rimaniamo noi, rimaniamo noi. Noi siamo perfetti. Siamo uomini perfetti. Non giochiamo mai col sole. E non piangiamo mai, non piangiamo mai, non piangiamo mai. Ciao.